Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Parla oggi mi ha veramente colpito, mi ha colpito per come è narrato e per la storia che racconta, e anche perché è una storia verosimile, insomma una storia che potrebbe essere tranquillamente accaduta a partire dagli anni 60 in Italia. Il romanzo si intitola L'ultimo arrivato, l'ha scritto Marco Balzano, pubblicato da Sellerio, ed è uno dei 5 libri finalisti del Campiello, che lo ricordiamo sarà assegnato il 12 settembre a Venezia. È un libro emozionante, appunto, proprio a partire dalla trama, a partire dalla storia. Poi parleremo anche del modo in cui è narrata, però la storia è sicuramente quella che colpisce di più. È la storia di Ninetto, viene soprannominato Ninetto Pelleossa. Lo vediamo bambino, lo vediamo a 9 anni, quando dalla Sicilia decide, addirittura soli 9 anni, di emigrare al nord. Marco, tu che sei comunque uno scrittore giovane, come mai hai deciso di raccontare questa storia di emigrazione minorile che in fondo, insomma, alla nostra generazione fortunatamente non appartiene, ma non so, ci sono stati ricordi, racconti di nonni, persone, come mai ti sei appassionato a questo tema? Perché la letteratura, forse una delle carte che meglio si può giocare, è quella di metterci in contatto con esperienze diverse e lontane dalla nostra, farci conoscere mondi che come esperienza biografica magari non avremmo mai toccato. Io anche negli altri 2 romanzi mi sono occupato di emigrazione. Io stesso vengo da una famiglia di emigranti, mio padre e mia madre hanno lasciato la Puglia verso i 15 anni. Si sono stabiliti proprio in alcuni di quei luoghi periferici che poi racconto nel romanzo. Quindi il tema aveva assunto una certa familiarità. Poi con l'emigrazione infantile in realtà il rapporto si è costruito in maniera in qualche modo casuale. Ho letto qualche saggio e mi sono accorto che, benché l'emigrazione sia una protagonista importante della letteratura del secondo Novecento, quella dei bambini non era mai stata raccontata, e mi ha colpito osservare che fenomeni di emigrazione infantile fossero tutt'altro che isolati e tutto sommato molto più vicini nel tempo a noi di quanto. Infatti qua parli degli anni 60, insomma, io avrei pensato gli anni 20, non so, nell'America, negli Stati Uniti. Mio nonno per esempio era emigrato a 16 anni a New York. Certo. Però vederlo qui negli anni 60, un bambino di soli 9 anni, appunto non è neanche un adolescente, che va a Milano da solo e inizia a lavorare. Mi domando anche, ma potevano lavorare i bambini? Cioè, c'era una... Sì, è ovvio che queste domande nascono nel lettore, però pensa che ancora nel 1962 esiste un picco notevole di bambini, specialmente siciliani, calabresi e lucani, che si trasferiscono, i più fortunati con un parente, i mediamente fortunati con un parente più alla lontano, con un compaesano, e si riversano nelle città del triangolo industriale. E ovviamente hai ragione, potevano lavorare. La risposta è no, in teoria, però, ma nella pratica sì, nel senso che sbarcavano in questa maniera picaresca, avventurosa, on the road, il salario, e facevano un po' quello che capitava: garzoni di barbieri, galoppini, baristi, muratori, fino al fatidico giorno in cui allora sì che era permesso di lavorare, cioè quando si compiva il 15° anno e si poteva entrare in fabbrica, e allora lì la loro vita cambiava e assumeva una solidità e una sicurezza fino al giorno prima inimmaginabili. E veniamo proprio alla storia di Ninetto. Detto, è una storia che mi ha fatto anche molta tenerezza e commovente in molti punti. Non nascondo che, insomma, ogni tanto la lacrimuccia spunta leggendo questo romanzo. Poi il finale non vi dico, perché sennò, insomma, vi svelo tutto. Giusto per farvi capire anche le atmosfere, Balzano scrive, parla in prima persona, quindi il bambino Ninetto: comunque non è che sono emigrato così da un giorno all'altro, non è che un picciriddu piglia e parte in 4 e 48. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose. Ho collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del 59, avevo 9 anni. E uno a quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese, niente affatto quello dei balocchi. Ma c'è un limite a tutto. E quando la miseria ti sembra un cavallone che ti vuole ingoiare, è meglio che fai fagotto e te ne parti, punto e basta. Lui parte, appunto, lascia la Sicilia, lascia suo padre per la miseria, insomma, perché vive in un paese sancono dove veramente si stenta. Lui mangia solo pane e acciughe. Sì, mangia pane e acciughe, gli servono il pasto il mattino, un tozzo di pane sopra un'acciuga stiracchiata e poi ci si rivede a sera. Non erano, appunto, come ti dicevo, infrequenti queste situazioni, bambini tolti da scuola che si subivano magari 10-12 ore a zappare su terre dell'entroterra che erano sassaie. E allora a quel punto il padre di Ninetto preferisce saperlo lontano, ma saperlo magari più aperto a una sorte che può cambiare in meglio. E quindi lui parte con questo paesano sul treno del sole, così lo chiamano gli emigranti, sì. Quello che si fa tutta la linea tirrenica, e parte, insomma, da Villa San Giovanni. E questo viaggio, insomma, anche un po' turbolento, che forse oggi, insomma, sembra anche molto meglio di quello che purtroppo sono costrette a fare le persone che emigrano oggi. E così Ninetto sbarca a Milano, una città grande, una città industriale, una città che non conosce, e inizia a fare il galoppino, chiamiamolo, cioè, così, sì, perché sì, consegna praticamente la biancheria che viene lavata e stirata da una lavanderia. Che impatto ha con la città, con tutto quel mondo che lui non conosceva nel momento in cui arriva? Ma Milano innanzitutto non è solo uno sfondo del libro, nelle mie intenzioni è una vera e propria protagonista. Milano è una città capace di accogliere il topos della fredda, nebbiosa e distaccata, ormai le calza stretto, ed è stato ampiamente rimesso in discussione. Certo, non è una città che sbandiera, però quando c'è da rimboccarsi le maniche lo fa. E quindi quando arriva Ninetto a Milano con questo paesano Giuvà, un contadino un po' stordito, a cui lui ne combina di tutti i colori, ma all'inizio sembrano un po' Totò e Peppino quando arrivano in stazione centrale. Ecco, poi lui partono proprio dal gradino più basso, dormono lì in stazione centrale, per fortuna è estate, in via Ferrante a Porti, dormono alla luna, dice lui, che ha questo sì, linguaggio. Sì, perché arrivano senza avere contatti, senza veramente all'avventura. E però il messaggio che ci arriva da queste storie qui, che ho raccolto prima di scrivere il libro un po' in giro, perché ricordiamo, sono testimonianze persone vere che tu, sì, hai raccolto. Poi la storia è una storia di fantasia in cui io ho rimpastato, reinventato, però arriva da delle testimonianze dirette. Queste persone oggi sono testimoni del nostro presente, hanno 65-70 anni, alcuni lavorano ancora. Ebbene, che io faccio l'insegnante, quindi lo vedo ancora di più in un adolescente quanto i ritmi della nostra vita siano veloci e soprattutto ci facciano credere che il presente sia come una dimensione eterna. Le cose non sono state sempre così, fino a pochissimo tempo fa erano tutt'altro, e quindi raccontare questa storia, secondo me, metteva anche in gioco un'idea di memoria, non come celebrazione, ma anche un'idea di memoria come rimessa in discussione di ciò che siamo. Una delle cose che mi è piaciuta di questo romanzo, L'ultimo arrivato, è che tu proprio dai spazio all'emotività, ai sentimenti, a cosa prova questo bambino, poi ragazzino, poi uomo adulto nella sua vita, perché lo vediamo fin dall'inizio, lui finirà in carcere, non diciamo perché, naturalmente lo si scoprirà solo alla fine del romanzo, e quindi si capisce che ha fatto, come dire, una storia di ascesa sociale, voleva migliorare economicamente, socialmente la sua posizione. Poi in realtà è finito in carcere. È la storia di uno sconfitto, di uno che non ce l'ha fatta, o invece di una possibilità che può sempre esserci nella vita? Il realismo è in letteratura una possibilità, non è una relazione di quello che è accaduto. Ninetto non è, secondo me, né un vinto, tantomeno un vincitore, è un fragile. Dicevamo che Ninetto finisce in carcere, lo si capisce, insomma, subito dalle primissime pagine, e anche qui secondo me tu hai avuto uno sguardo attento, preciso sulla psicologia di Ninetto, perché a un certo punto scrivi: è uscito dal carcere, oggi però non è proprio giornata da mettere il naso fuori di qui, voglio stare a casa perché mi manca il carcere. Sì, dico il vero, mi manca la gattabuia. È vero che per molti detenuti lui passa 10 anni in carcere, insomma, la libertà sì, ha un buon sapore, però nello stesso tempo in carcere si era protetti. Io ho segnato in carcere un paio d'anni. Ecco, nel perché romanzo... c'è qualcosa che... che hai captato, che nel hai romanzo capito. Precedente c'è un bel racconto di questo insegnante precario che si ritrova a finire a insegnare a Opera, lo stesso carcere dove viene recluso Ninetto, sì. Ma è vero, il carcere in qualche modo ti dà questo senso di protezione e ti rimanda la necessità, l'urgenza scomoda di doversi rimettere in gioco. Qui Ninetto, quando esce dal carcere, ha 57 anni. Milano è cambiata completamente, internet, il curriculum europeo, i nuovi ultimi arrivati, i magrebini, i cinesi che hanno affollato le periferie, rilevato i bar che erano di amici italiani, persone e situazioni con cui in qualche modo devi per forza affrontare, con cui devi per forza incontrarti e scontrarti. Lui non ha le coordinate per rileggere il presente, quindi rimane un uomo che vive più dentro di sé che fuori di sé. Nel romanzo naturalmente c'è tutta la vita di Ninetto, quindi l'incontro con Maddalena, la compagna di una vita, la fuitina, insomma adesso non è che possiamo raccontarvi tutto. Io vi dico solo che a un certo punto di questo romanzo, verso la fine, c'è, ecco, forse la scena più commovente, lui che dà la mano a una persona, non vi diciamo chi, ed è uno dei momenti più emozionanti secondo me di questo romanzo. Ve lo ricordo, si intitola L'ultimo arrivato, l'ha scritto Marco Balzano, che ringrazio. Grazie a voi. Ed è pubblicato da Sellerio. Questo è uno dei 5 libri candidati al Campiello che verrà assegnato il 12 settembre a Venezia. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Parliamo di Spaghetti all'assassina, il nuovo romanzo di Gabriella Genisi pubblicato da Sonzogno. Come sempre protagonista è Lolita Lobosco, che è un commissario a Bari e stavolta deve indagare sull'omicidio di uno chef. Il titolo però Spaghetti all'assassina non ha tanto a che vedere col fatto che c'è stato appunto un omicidio di un cuoco, ma gli spaghetti all'assassina sono una vera e propria ricetta tipica barese, della tradizione barese, come ci racconta la stessa autrice. Spaghetti all'assassina esistono e è una ricetta antica che era stata un pochino dimenticata, ma adesso forse anche grazie alla crisi è stata recuperata in maniera molto forte, perché è un piatto povero della tradizione barese, è quello che è un piatto che prima si preparava con la pasta del giorno prima, e in questo libro è essenziale alla risoluzione del caso anche. Lo diciamo subito perché la vittima è tale Colino Stramaglia, Colino a Bari, insomma sarebbe Nicola, insomma, che è uno chef famoso, ormai ha 75 anni ed è l'inventore di questa ricetta. Viene trovato ucciso in un modo anche piuttosto brutale, perché viene incaprettato. Lolita Lobosco a questo punto deve indagare. Come inizia a muoversi in questa indagine? Dunque, innanzitutto Lolita non conosce questa famosa ricetta, ma tutti le spiegano che è essenziale alla risoluzione del caso conoscerla e addirittura assaggiarla. L'efferatezza del delitto è tale che pone una serie di problematiche, di dubbi, di ipotesi, ma Lolita comincia a muoversi proprio nel mondo degli chef, nel mondo della cucina, che è spesso fatta da divismo, rivalità e cose misteriose. La prima cosa appunto che Lolita fa è quella di assaggiare questa famosissima ricetta. Perché Lolita Lobosco, pur essendo barese, non aveva mai assaggiato gli spaghetti all'assassina. E ti confesso, Gabriella, pur essendo nata e cresciuta a Bari, ho sempre sentito parlare di questa ricetta, ma neanche io l'ho mai assaggiata. Quindi, insomma, dovremo rimediare in qualche modo. Allora, lei parte appunto da questa ricetta e ricordiamo che nelle indagini lei ha una carissima amica, Marietta, che adesso è diventata procuratore capo. Tu racconti anche le vicende sentimentali, naturalmente, che accompagnano Lolita. Il fatto di aver così immaginato un delitto nel mondo degli chef è un po' perché questo è un periodo in cui si parla tanto di cucina, di chef, anche se in realtà so che è una tua vera passione quella della cucina. sì, è una mia grande passione, però io non amo il divismo su, in tutti i livelli, e forse viene data eccessiva attenzione a questi cuochi, non dal punto di vista culinario quanto dal punto di vista dell'immagine. E allora in questo libro mi sono divertita un pochino a bacchettare questo mondo, a criticarlo, anche se, ripeto, come tu hai detto giustamente, io amo tantissimo cucinare, mi piace moltissimo, e spero di venire a Milano presto a preparare gli spaghetti all'assassina. Beh, l'aspettiamo a Radio 24 perché io li voglio assolutamente assaggiare. Tu uno chef l'hai fatto morire in questo caso, quindi insomma gli hai dato proprio, come dire, il colpo finale. E invece che mondo è quello degli chef in cui Lolita inizia ad indagare, o meglio non solo degli chef ma comunque dei cuochi, dei camerieri, tutte le persone che stanno intorno al ristorante di questo chef che è stato ucciso? Intanto, scrivendo questo libro, ho imparato che esistono, ecco, la cucina internazionale e quella nazionale seguono canoni diversi. Per esempio, mentre in Francia le cucine sono organizzate secondo canoni militari, in Italia c'è più un discorso di amicizia, di cameratismo, e quindi in Italia è tutto molto più facile. Intorno al ristoratore apparentemente ci sono dei legami molto forti con i suoi collaboratori, però pian piano questo clima idilliaco viene smontato pezzo per pezzo, e quindi anche all'interno di questo mondo ci sono molte invidie, addirittura da sfociare in un delitto. Lolita Lobosco è il tuo personaggio seriale, insomma, questo è il quinto romanzo, se non erro, con la tua protagonista seriale. Questa volta, dal punto di vista sentimentale, lei ha deciso di lasciare quello che chiama Giovanni mio, perché tu nella scrittura innanzitutto usi proprio una costruzione delle frasi che è tipicamente barese, insomma, forse chi conosce Bari coglie qualcosa in più rispetto a chi non la conosce. E Giovanni mio che fine ha fatto? E Giovanni mio non era il principe azzurro che Lolita credeva. Lei è una professionista affermata, un commissario degli omicidi, ma è assolutamente sfortunata dal punto di vista sentimentale, quindi è continuamente alla ricerca di questo amore perfetto. Credeva di averlo trovato in Giovanni mio, questo bellissimo sostituto procuratore, ma in realtà non è stato così, è stato un abbaglio, e adesso lei è alla ricerca di un nuovo amore, sperando che sia quello per sempre. Devo dire che nei romanzi di Gabriella Genisi c'è una descrizione di Bari molto, molto veritiera, non è macchiettistica. Tu a un certo punto scrivi, nel momento in cui Lolita Lobosco sta andando al policlinico, nell'istituto di medicina legale, perché c'è un'autopsia appunto in corso: il policlinico barese è una specie di paradigma della città. L'eccellenza di alcuni reparti mescolata ai parcheggiatori abusivi, i luminari famosi in tutto il mondo accanto ai portantini con la panza di fuori e la bottiglia della birra Peroni in mano, mi viene da ridere solo a leggerla, famiglie intere che bivaccano al pronto soccorso perché la nonna ha il mal di denti e il custode all'ingresso che senza tesserino non vuole farmi passare, e se insiste oggi lo faccio sospendere. Insomma, tu hai un modo anche molto ironico di descrivere Bari, come mai? Ma forse il mio occhio è quello, credo che uno scrittore debba rendere una visione pulita della città, e anche molto critica, nel senso racconto la Bari bella con tutte le sue luci, però anche le zone d'ombra. Non si può rendere soltanto un aspetto di una città, anche se la si ama moltissimo, come io moltissimo amo Bari. Questa era Gabriella Genisi, ora in libreria con Spaghetti all'assassina, pubblicato da Sonzogno. Veniamo ora ai festival, uno dei festival che forse mi piace di più fra quelli nati negli ultimi anni. Si chiama Cortona Mix Festival e si svolge ogni anno fra la fine di luglio e i primi di agosto a Cortona, Toscana, provincia di Arezzo. In particolar modo l'edizione di quest'anno è dal 25 luglio a domenica 2 agosto. È un festival che propone appunto un mix, come dice la parola stessa, fra scrittura, quindi narrativa, saggistica, ricca, musica, danza e così via, e spettacoli di vario genere. Fra gli autori presenti quest'anno, il francese Daniel Pennac, poi ci sarà il vincitore del premio Strega, Nicola La Gioia, il vincitore invece dello Strega Giovani, Fabio Genovesi, Luca Bianchini, Concita De Gregorio. Poi ci saranno diverse proiezioni di docufilm, come quello con Kevin Spacey su Riccardo III, quello sugli Spandau Ballet, uno spettacolo di Ale France su Gaber e Iannacci, Ascanio Celestini, uno spettacolo sulle più belle colonne sonore del cinema. Poi ci sono laboratori di scrittura, laboratori musicali, la musica dal soul alla classica, con un concerto per esempio di Mario Biondi. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti alla Cortona Mix Festival, a partire dal 25 luglio fino al 2 agosto. Prima di chiudere, una segnalazione: ricordate Sette brevi lezioni di fisica, quel libro di Carlo Rovelli pubblicato da Delphi, che è diventato, insomma, nel giro di alcuni mesi un vero e proprio bestseller? Beh, era nato dagli articoli che Rovelli aveva pubblicato sull'inserto Domenica del Sole 24 Ore. E domani, domenica 19 luglio, sul Domenicale ci sarà appunto in esclusiva l'ottava lezione di fisica. È una riflessione di Rovelli su quanto sia stato determinante per la rivoluzione copernicana il Rinascimento italiano. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia Roberta Frisani. Vi ricordo che trovate tutto su podcast a radio24.it e se volete essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.